Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Al 90° bandiere e trombette restano sul campo. Al fischio finale la delusione è cocente. In un paese con 60 milioni di commissari tecnici non possono mancare le più diverse valutazioni. Secondo me Marchisio non ha fatto un fallo da espulsione. Il girone di ferro era di ferro perché c'erano Uruguay e Inghilterra, ma non per la Costa Rica andava battuta. Quest'anno non c'era voglia di vincere. La delusione è tantissima. L'arbitro ha sbagliato a espellere Marchisio, che è uno dei giocatori più puliti della Serie A, e quando Suarez ha fatto il castoro poi ha strappato la maglia a Chiellini, gli ha dato un morso sulla spalla. Comunque Prandelli non doveva levare due attaccanti che davano profondità alla squadra, è stato un errore anche suo, quindi è stata una combinazione di errori da parte... Da un punto di vista tecnico, da un fantastico, punto di vista... Fantastico, sto imparando un sacco di cose. Stamattina mi sono fatto il giro dei bar, delle metropolitane, dei luoghi dove la gente si raduna, si dicono proprio queste cose qua. Di Suarez ha dato il morso, ne ha già dati altri due, non so nemmeno chi sia, un giocatore dell'Uruguay che ha morso sulla spalla un altro giocatore. Ma sarà un segno d'amore, un rapporto estremo. Non lo so, forse aveva fame, li tengono a stecchetto così almeno però vincono le partite. E sto anche io improvvisandomi in questo momento commissario tecnico. Beh, adesso io avevo fatto una trasmissione qualche giorno fa quando l'Italia vinse trionfante la perfida Albione, ci fu il ministro l'onorevole Gasparri che se la prese con gli inglesi, capimmo che l'orgoglio nazionale era riposto soprattutto nella nostra nazionale di calcio. Questa mattina che la nazionale di calcio se ne torna con le pive nel sacco, secondo me per quel poco, anzi per quello zero che ci capisco, mi sembra che sia un momentaccio. Vedo tutti i titoli dei giornali: improvvisamente non esiste più la crisi, la politica va in ultimo piano, non è successo nulla, non accade nulla nel nostro paese, disastro azzurro, addio ai mondiali, si dimettono Prandelli e Abete. Penso che uno sia il commissario tecnico, l'altro non lo so. Prandelli fallisce dalla colpa Libero, lo dice Libero, evidentemente bisognerebbe entrare. Chiagni e Morsi, il Fatto Quotidiano. Poi vediamo un po'. No, il più bello è stato Il Tempo, che ha scritto Che Pippe come titolo, proprio per dire. Ma perché? Perché? Perché erano come gli eroi, i gladiatori, rappresentavano noi, dovevano vincere. E poi la cosa che non riesco a capire, ma me lo spiegherete voi chiamando all'800240024, perché questa mattina voglio lezioni di calcio da me, ascoltatore, devo capire. Ma perché la frase che più comunemente sento dire è: siamo andati a perdere proprio con la Costa Rica e l'Uruguay. Ma perché? Cosa vuol dire? Cosa sono paesi del terzo mondo, paesi di poveracci? Non so, qual è il problema? Perché abbiamo visto perso con la Costa Rica e l'Uruguay, che i nostri giocatori guadagnano fantamiliardi in più di questi altri giocatori. Hanno vinto, forse questo è il fatto. Se avessimo perso, che ne so, con la Germania, probabilmente sarebbe stato meno infamante la perdita. Devo capire perché questa mattina l'orgoglio nazionale è stato così vilipeso. Perché improvvisamente noi marciamo come se fossimo un esercito in sconfitto che cammina verso le forche caudine del vincitore. Ma chi è il vincitore? Chi ha vinto su di noi? Qual era la battaglia? Cosa ci giocavamo? Qual era la posta in gioco? Perché questa mattina è quasi lutto nazionale? 800240024. Inizio col dire una cosa. La nazionale italiana di calcio è una delle poche cose che riesce ad unire un paese, perché quando gioca la nazionale di campo tutti tifano la nazionale e sono tutti uniti, anche le diverse tifoserie sono unite, anche la gente che magari non sta bene con se stessa magari può ritrovarsi nell'Italia. Cioè, quello che voglio dirvi è che la nazionale italiana ha tanta forza sugli italiani, okay? Perché l'Italia è un paese che ama il calcio. Mi fermo perché ho il cuore veramente frantumato dal dolore di questo ragazzo che sta trasferendo su YouTube il proprio sincero, sentito, percepibile dolore, disfatto. Ma tutti i tricolori che ho visto in questi ultimi giorni, ho visto striscioni che dal settimo piano dei condomini scendevano giù fino a terra, balconcini imbandierati, e cosa fate? Mettete le bandiere a mezz'asta, perché qual è il lutto nazionale? Beh, ci abbiamo provato, non è andata poi così bene, sì, abbiamo probabilmente una squadra nazionale di calcio che fa pena, ma come tutti i fighetti, l'abbiamo visti, ho seguiti per mesi se non anni, su tutti i rotocalchi, ogni loro amore, ogni loro palpito sessuale, ogni loro intemperanza diventava un fatto, coccolati, ammaniti, perfettamente al centro di ogni nostra attenzione, di nostra pulsione. L'altro giorno un'amica mia mi ha detto: ho visto Totti, non credo che c'entri niente con la nazionale, forse sì, non lo so, no, non c'entra niente. Un altro dice: ah, l'ho visto, un fisico da paura, e stava svenendo. Sì, avrà un fisico da paura, ma avete mai sentito parlare? Possibile, sì, fa il calciatore, è giusto che abbia un fisico da paura, ma qual è il problema? Perché oggi vedo soltanto musi lunghi? Poi non è cambiato niente da ieri, non è che vanno sottratto altri soldi dalle tasche, non è che lo spread è andato a finire non so dove, non è che ci sono state nel nostro paese particolari eventi luttuosi, ma non so. Lino, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di essere stato contattato. Me lo spieghi veramente, lei è triste oggi? Io triste? Ma perché triste, scusi? Non lo so, boh. Ci siamo tolti dalle scatole un abete che non capisce niente di parole. Mi spiega chi abete, che io non lo so. Chi è? Se fa una trasmissione del genere mi meraviglia. No, la trasmissione parte col presupposto: oggi voglio imparare dai miei ascoltatori. Ah, va bene, mi piacere. Me lo spiega? È uno che ha portato... ha tenuto su una nazionale che non merita, secondo me, sono italiano. Ma cos'è, il medico della nazionale? Chi? Abete? Abete, no, è il presidente della Federcalcio, mi pare. Ah, il presidente, ah, beh, non sa manco lei, vedi, fa tanto l'esperto, la sa meno di me, scusi. Beh, ho capito, però... No, io ammetto che sono ignorante, ma vabbè, allora, qual è la colpa di Abete? Perché mi ha scritto, guarda, un altro ascoltatore. Allora, il problema non è tanto Abete, perché voglio dire, non è un presidente che possa fare la differenza... Che non siamo sicuri se è il presidente, non è manco lei sicuro. È stato... Vabbè, uno col comanda. Vabbè, uno... Si è dimesso? Come sì, siete dimesso. Prima ha respinto le dimissioni di cosa? Di come si chiama? Di Prandelli. E poi si è dimesso lui. E poi ha fatto scopa, dimissioni, tutti e due dimessi. E beh, allora. Almeno qualcuno si dimette, nel calcio si dimette. No, si dimettono con quella figura di merda, scusi l'espressione volgare, anche se dobbli con quelle figure di merda. Ma noi abbiamo una classe politica che fa figure di M, come dice lei, dalla mattina alla sera, ma non si dimette mai nessuno. Ho capito, ma che vuol dire significa? C'è anche Venezia, è tornato il sindaco, tutti tranquilli, tutti. Sì, vabbè. Diciamo che non tutti i mali vengono per noi. Vabbè, allora sentiamo Nino, va, che lei non mi convince. Scrive un ascoltatore intanto, ancora sulla coda lunga della trasmissione Cuori Denari: ha sbagliato il medico della nazionale e le nutrizioniste. Crampi e pesantezza alle gambe, cioè mancanza di sali. Devono dargli il sale ai giocatori, Lino? Nino? No, non credo. No, Nino, me lo spieghi lei. Se davano il sale, vincevano. Mio figlio ha 8 anni e gioca a calcio, buongiorno. Buongiorno. E io faccio di tutto per cercare di dargli una corretta alimentazione quando... Quindi il sale? Quando c'è le partite. E anche con il caldo cerco di essere premuroso. Non lo sa, perché io vengo da una civiltà contadina. Quando le mucche da latte avevano dei problemi, si mettevano dei rotoli, dei cilindri di sale e leccavano questo sale perché hanno bisogno dei sali. Forse bisogna far leccare i cilindri di sale anche ai nostri calciatori. Penso, non lo so, la mia è una cultura molto arcaica. Forse è questo il problema. Probabilmente ha ragione. Io la penso come... Il calcio è facile essere competenti, come vede. Facilissimo, siamo tutti tecnici. Già ne so anch'io qualcosa di più. Il problema è il salenino. Sentiamo Marco, va. Marco. No, mi spiace, buongiorno. Sì. Io non entro in merito alle questioni tecniche dei sali, dell'alimentazione, ma quanto... No, a me interessa molto. No, a me proprio per niente. Invece mi interessava molto l'analisi circa il fatto di questo lutto nazionale che tutti stamattina viviamo negli uffici, nei bar, nelle persone. Cioè, se tutti con questa faccia triste abbiamo perso. Lo sa cosa mi scrivono? Cosa mi scrivono i tecnici? Nicoletti, fermati, cambia argomento. È come sentire Sandra Milo che parla dell'economia industriale, no? Invece tutti competenti. Allora, sentiamo. Io sono qui, un ignorante. Voglio capire. Mi dica lei, allora, Bar, qual è il problema? No, non c'è un problema, c'è una assenza, cioè c'è un'assenza totale di riferimenti nazionali, di cultura popolare che possa essere esprimibile in termini diversi o dalla... Allora è un problema di Weltanschauung, come abbiamo detto più volte, sicuramente questo. Nino, buongiorno. Nino, scusi, lei l'ho interrotta. Cosa voleva dirmi rispetto alla carne della sua carne, suo figlio? Io, mio figlio ieri sera ha pianto per 10 minuti. Perché ha perso la nazionale? Prima che finisse la partita. Ma lo aveva picchiato, perché ha pianto? Ha pianto perché abbiamo perso. Ha pianto. Ah, è un motivo di pianto? Sì, non si capacitava. Ma allora anche lei condividerà il fatto che in realtà non è un problema legato al sale, ai giocatori, è la Weltanschauung che è in crisi nel nostro paese. È la voglia. Mio figlio ha fatto una considerazione: papà, abbiamo fatto solo un tiro in porta, ha tirato solo Pirlo, e così non possiamo vincere. Ma Pirlo è un insulto, cos'è? No, Pirlo è il giocatore. Ah, pensavo che era come dire... No, che soltanto... ignorante di una cosa nella vita. Per carità, e questa cosa mi ha intenerito, poi mio figlio che ha pianto con un lacrime. E lei cosa ha fatto? L'ha abbracciato, ha detto coraggio figlio mio, la prossima guerra la vinciamo. Fra 4 anni forse potremmo... Spero che fra 4 anni suo figlio... Era il primo mondiale per abbia lui, trovato quindi... argomenti di pianto molto più consistenti. Sì, o se no non pianga più, non lo so, perché... No. In bocca al lupo, Nino. Mauro, qual sì, è il problema? Dottor Nicoletti. No, lei ha una teoria molto interessante. Qual è il problema, secondo lei, stato? No, il problema mio, quando lei diceva prima perché prendercela con la Costa Rica, perché considerare Uruguay e Costa Rica le squadre, diciamo, rispetto all'Italia... Il problema è per me più semplice, nel senso che l'Uruguay ha 8 milioni di abitanti, il Costa Rica ne ha 3, l'Italia ne ha 60, quindi è proprio un dato statistico, come fanno a tirar fuori, o diciamo sono... Ma che questo cosa vuol dire? Non mi spiega perché vuol dire, perché statisticamente ogni tot abitanti vede fuori un campione di calcio? Beh sì, si può presumere anche quello. Però magari diciamo sono pochi, ma sono cazzutissimi, giocano dalla mattina alla sera, invece che avere la PlayStation giocano a calcio da piccoli. Infatti secondo me il problema è proprio quello appunto che... Se non vincono non gli danno da mangiare, quindi sono molto incentivati, non lo so, ci saranno dei motivi. Probabilmente quello, oppure sentono anche diciamo... Se hanno addentato, se c'è uno che addenta tutti, avrà fame poverino, evidentemente li tengono a stecchetto, i nostri mangiano troppo, sono troppo pasciuti e ben nutriti. Quello che è successo ieri è qualcosa di pazzesco, perché andiamo ad analizzare il mondiale dell'Italia. Le amichevoli è meglio che lasciano stare, perché mi potrebbe venire qualcosa di forte. Allora, prima partita con l'Inghilterra, abbiamo giocato bene, l'abbiamo portato a casa 2-1. Con una formazione con Balotelli. Solo per dargli coraggio, che sentiamo un attimo il depresso che questa mattina su YouTube sta facendo una sorta di autocoscienza sul perché l'Italia ha perso. Nicoletti, sali minerali, stupido. Ah, dai, che ne so, pensavo il sal gemma, il sale quello grosso per fare la pasta, ma posso saperne io anche di sale ai calciatori. Non so cosa si somministra ai calciatori per farli vincere. Ah, un altro mi dice, un altro ascoltatore via SMS: devono mangiare le banane. Per evitare i crampi da non mangiare più banane. Hanno mangiato poche banane. Questo è il problema. Se avessero dato grandi sacchi di banane ai calciatori, avrebbero vinto. Caro Nicoletti, è mancata la voglia, il rispetto morale verso la maglia che indossano, che altro non è che lo specchio della situazione della nazione. Questo è il catastrofista. L'Italia va a rotoli, Dio mio, dove andremo a finire? Che paese, Dio mio, quindi per questo l'Italia ha perso. Abbiamo perso in momenti in cui eravamo molto peggio. Poi un altro dice, finalmente un giorno possiamo sentirla ignorante. Ma io sono ignorante tutti i giorni. Ah, un altro mi dice, ci capisci più di calcio che di religione, come dire, non osare parlare di Dio, apostata. Fabio. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Ma a mio avviso il problema è stato, si può diciamo ridurre a questi termini, nel senso che l'allenatore non è stato sufficientemente lungimirante. Era Abete, era? No, Abete era il presidente, l'allenatore appunto il nostro Prandelli, secondo me non è stato particolarmente lungimirante. Ma era bravo, è bravo, Prandelli nella vita è uno che lo sa fare, il suo mestiere. Guardi, non lo so, domando. Non lo so, anch'io oggi la gente lo coprirebbe di piume di catrame, lo porterebbe con un palo in giro per le piazze, ma se lo merita questo? Lo domando. Non se lo merita, lui principalmente ha dato fiducia. Aspetti, cerco una foto di Prandelli per vedere che faccia abbia. Ah, ecco, beh, un signore con capelli grigi, oggi con lo sguardo da eroe di una guerra perduta. Sarà stato in buona fede a dar fiducia a questi giovani, eccetera, che però non hanno risposto a questa fiducia, ma altrettanto impegno. Ma adesso cosa succede? Mi spieghi nella prassi, quando tornano i giocatori all'aeroporto li vanno a aspettare con le mele marce, con i pomodori, guardi, diciamo che secondo me queste cose non servono, perché oramai lo so che non servono, ma accade, questo è stata fatta, accadrà sicuramente per persone che poi chiaramente presi dall'enfasi di e così poi la prima foto che vedono su rotocalco con la gnocchetta Porto Cervo dimenticano tutto. Luca, buongiorno. Buongiorno Nicolè, mi spieghi che è successo? Non me ne rendo conto. Semplicemente la squadra ha giocato male, punto. Non si può pensare di affrontare 3 partite, la prima vincerla con una Inghilterra modesta. Io parlo di quindi la prima è stata una botta di culo, vuol dire lei? ma i risultati che sono venuti successivamente hanno dimostrato che noi abbiamo sconfitto, noi come Italia calcistica, abbiamo sconfitto una nazionale che era una nazionale bollita. Comunque la fine dell'Inghilterra incomincia già Rabub, ecco, cantavano i nostri nonni. Poi i risultati ottenuti successivamente, la sconfitta con la Costa Rica e questa sconfitta con l'Uruguay, dimostrano che per mille motivi che saranno legati al sale, al pepe, all'aceto, alle banane o quant'altro, io mi vorrei soffermare invece nei colletti su un aspetto, perché io mi sono visto in quel bambino che piangeva quando ha perso la nazionale. Poverino. Ma non è legato probabilmente al fatto che la nazionale abbia, o comunque è legato a un rapporto. Io personalmente anni fa, quando Marco Pantani, che conduceva in maniera brillante, non ricordo se fu un Tour de France o un Giro d'Italia, venne squalificato a 200 km dal traguardo perché è trovato positivo. Che si do faceva? Non voglio a dirlo, piansi. Perché avevo detto. Era un eroe che cadeva, un integerio eroe. Ma qui che eroe c'ha quel bambino? Uno si chiama Pirlo. Probabilmente quel bambino non è legato tanto agli eroi che vestono la maglia azzurra, a quanto rappresenta per lui il calcio in questo momento della sua età, della sua fase evolutiva. Lui vive il calcio con passione, come uno sport. Quindi hanno una grossa responsabilità questi signori Abete Prandelli. Non credo che si hanno creato un trauma irreversibile nelle giovani menti. No, questo assolutamente no, perché nella cultura. Lei pensi poi mio padre e mio nonno che hanno fatto la guerra. No, appunto. No, dico, poverino. Ma la cultura sportiva. Mi porta ancora i traumi nel DNA, infatti. La cultura sportiva è che la vittoria, ma in un contesto di equilibrio, deve essere accettata tanto quanto la sconfitta. Se sei indignato in tonti, un bambino non può piangere la partita. No, un bambino non può piangere la partita. Ma è assolutamente legittimo che un bambino pianga per una partita. E se lei guarda una qualunque finale di Coppa Campioni, chi perde anche fra gli adulti esce piangendo. Gli stessi tifosi. Vabbè, i giocatori, certo, se perdono è chiaro che piangono. Ma io parlo del pubblico. Se lei va a rivedere le immagini. Con tutto quello che hanno speso per la trasferta, per andare. Non dire così. No, penso sia quello. È una questione di. C'è gente che si mette in ferie, mette soldi da parte per anni. Bravo, va lì. Perché ognuno deve godere delle proprie passioni. E se questa è una passione ed è vissuta con. Ma il godimento non è mai assicurato quando si fa parte della stirpe umana. Questo dovrebbe saperlo. Ma questo è naturale. Vabbè, Giovanni, sentiamo Giovanni, se no andiamo in filosofia. Giovanni. Esatto, buongiorno. È triste? La sento. Sono molto allegro. Pure la scritta. Infatti per quello non senta, ma è vero che Suarez ha morso 3 volte? Mi hanno detto. Perché morde? Questa mattina leggevo su Facebook limati i denti a Suarez. Io non capivo, dico, ma perché? Cercato di morderlo, però manco l'ha morso, perché l'ho visto un po'. Forse voleva baciarlo sul collo. Non lo so, mi viene da pensare, perché uno morde sulla spalla un altro uomo? È un gesto ambiguo, fortemente erotico, fra l'altro. Forse gli piaceva, no? Forse gli piaceva. Oh, questo abbiamo capito. Erano come la falange macedone, uniti da vincolo amoroso, ma non soltanto da dei rapporti di normale antagonismo sportivo. Questo è il fatto, altro che le banane, altro che il sale, via dicendo. Francesco. Io condivido con lei, io sono anch'io un po' ignorante nel caso. Vede che però sono arrivato io in un quarto d'ora scarso ho acquisito competenze tali, potrei scendere al bar qua sotto e parlare della partita come gli altri. So tutto, le basi so, mancava il sale, mancano le banane, colpa di Abete, colpa di Prandelli e Suarez ha morso 3 volte, ecco, so tutto, che altro devo sapere? Quello che voglio dire io è questo. Mi spiega solo una cosa, quello che hanno cacciato impropriamente, che non era giusto, mi dica il nome. Non lo sa nemmeno lei? Non lo so. Marchisio? Comunque, io voglio dire solo questo. A me piacerebbe che gli italiani mettessero la stessa intensità e la stessa passione quando si tratta di valori, quando si tratta del vero senso della patria. La stessa intensità che mettono nel calcio, che la vediamo purtroppo, il senso della patria. Non ho mai visto un bambino piangere per una crisi di governo, onestamente, mai visto. Non è questione di piangere per la crisi di governo, è questione di appassionarsi alle cose importanti. Importanti, c'ha ragione, le cose importanti. Davide, quali sono le cose importanti? Intanto bisogna spiegare che cos'è il calcio, Nicoletti, ciao, buongiorno. Buongiorno. Cioè, c'è una palla in mezzo, Ok, questo lo sai già. Beh, fino a qua, sì. Che cos'è il calcio? Due partite che giocano, sì. I bambini piangono, se i bambini piangono bisogna dirgli di non rompere le balle, insomma, che non si piange per una partita di calcio, punto e basta. Se poi ci si identifica in questo popolo, gruppo di 11 che c'è. Ma lei non interessa nulla, è così cinico da dire oggi non è un lutto nazionale. No, no, oggi ma a me frega niente, cioè proprio chi se ne frega. Per me sono dei bambini, quasi tutti, con una bella magliettina, che vanno lì, guadagnano una valanga di soldi, beati loro, e via, fanno la loro sfilatina, insomma, ma chi se ne frega. Vabbè, ci saranno arrivati in qualche maniera, non è che sono arrivati perché il papà era ricco e potente. Saranno probabilmente alcuni forse anche, altri sicuramente per talento e capacità, nessuno dice niente su questo, anzi, sono dei... Non è che avranno giaciuto con i commissari tecnici per guadagnarsi la nazionale, cioè non voglio pensare queste cose qua, non voglio applicare un teorema sin troppo scontato a quello che oggi è il motivo di terribile caduta di umore nel nostro paese. Grazie, a domani.